Provi a chiamarlo ancora, fermata guida un'ora, non dici una parola, un nodo stretto in gola. Lui che non ti sa amare, tu che non vuoi capire, non c'è magia da fare per farlo innamorare, è tutto inutile. Lui, un poco di lei, un poco di te, tu vivi un amore che non c'è, non è lui la favola che vuoi, dimentica questa storia. Lui non merita questo amore, tu per lui non devi soffrire, dai, riprenditi la tua libertà, sei ancora una ragazzina, purtroppo ancora cambiare, da zero puoi cominciare. Sciogli quel nodo in gola, non stare qui da sola, richiama le tue amiche, devi ricominciare, è un sabato speciale, stasera da ballare, e tutto può cambiare, devi dimenticare, ci puoi riuscire. Sera.